ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. Il mio nuovo posto di cameriere e poi di maître fu da qualche parte sopra De Cin, in montagna. Quando arrivai a questo albergo, presi quasi paura, non era un alberghetto qualunque, come mi aspettavo, ma una piccola cittadina, un grande paesetto, in mezzo a boschi, con sorgenti di acqua calda. Qui soffiava un'aria fresca che si poteva mettere in una coppa, bastava voltarsi un poco verso il soffio gradevole e inghiottire lentamente, come i pesci con le branchie, e sentivate con grande chiarezza e forza come quell'ossigeno mescolato all'ozono vi scorreva per le branchie, come i vostri polmoni e alveoli si gonfiavano lentamente, come se, prima di essere arrivati qui, da qualche parte giù aveste bucato uno pneumatico. Già da tanto l'aveste bucato e solo qui in quest'aria l'aveste automaticamente finito di gonfiare a quelle atmosfere con le quali si viaggia non soltanto più sicuramente, ma più gradevolmente. Lisa, che mi aveva portato qui con un'automobile militare, passeggiava come fosse a casa, sorrideva di continuo mentre mi conduceva per i lunghi filari che formavano il cortile principale. Erano statue tedesche, con corna, statue di re e imperatori, tutto in marmo fresco o calcare bianco che brillava come zucchero. E uguali erano anche gli altri edifici amministrativi che sporgevano dal colonnato principale come foglie di acacia. E anche lì dappertutto c'erano altri colonnati. Prima di entrare in uno di questi edifici potevate passeggiare oppure dovevate percorrere un colonnato con le stesse statue con corna, e ugualmente tutte le pareti erano ornate con bassorilievi di quel glorioso passato tedesco, quando ancora correvano con le accette e si vestivano di pelli, un po' come nelle antiche leggende ceche di Jiráshek. Gli abiti però erano tedeschi. Elisa mi spiegava tutto, e io ero sempre più meravigliato, e mi ricordai del garzone dell'Hotel La Quiete, il quale amava dire e parlare di come l'incredibile era diventato realtà. Anche questo era così. Lisa mi spiegava con orgoglio che qui c'era l'aria più sana dell'Europa centrale, e un posto così c'era ancora vicino Praga, e che qui c'era la prima stazione europea di allevamento di razza per esseri umani, che il Partito Nazionale aveva costruito qui il primo punto d'incrocio del sangue di razza, di ragazze tedesche e di soldati puro sangue, sia della Heereswaffe sia della SS-Waffe. Tutto era su base scientifica. Qui non soltanto si compivano coiti nazionalsocialisti così come copulavano vigorosamente gli antichi germani, ma soprattutto qui le future partorienti che portavano in grembo gli uomini nuovi dell'Europa, qui si sarebbero anche sgravate e solo dopo un anno sarebbero partite per il Tirolo e la Baviera e la Selva Nera o verso i mari per continuare là, nei primi asili e nelle scuole materne, l'educazione dell'uomo nuovo. Naturalmente ormai senza madri, bensì sotto il controllo della nuova scuola. Thank you. così. Lisa mi indicava belle case piccoline, costruite in forma di casette di campagna, con i fiori sporgenti dei parapetti delle finestre, e balcone, e ballatoi di legno, e io vedevo quelle future madri e quelle madri, ragazze bionde, tutte vigorose, come di campagna, come se non venissero da questo secolo ma fossero nostrane, però di qualche paesino così sperduto che portavano ancora mutandine a righe e blusette come le portano da noi le ragazze del Sokol, o come le portava nel quadro Bosena mentre lavava la biancheria e Oldrich se n'era invaghito passandole accanto a cavallo. Tutte avevano bei seni e tutte mentre camminavano, perché qui quelle ragazze facevano sempre lente passeggiate, camminavano in quei colonnati come se fosse parte del loro mestiere, guardavano quelle statue di combattenti con corno, sostavano davanti ai bei re e imperatori tedeschi e probabilmente si stampavano nel cervello quei volti e quelle figure e anche le storie di quegli uomini gloriosi del passato. Poi venni a sapere e sentii dalle finestre delle scuole dove si tenevano lezioni su quegli uomini leggendari e dove si esaminavano le future madri, se quella storia non già la ricordavano ma se la conoscevano a memoria, perché lo dovevano sapere quelle donne, come diceva Lisa, che le immagini nelle teste di quelle ragazze attraversavano tutto il corpo, fin giù, fino a quel che dapprima una sorta di sputacchio, poi girino, dopo una specie di raganello o rospetto e infine poi fino al piccolo essere umano, all'omuncolo, il quale da nanerottolo cresce lentamente, di mese in mese fino al nono, quando diventerà un essere umano e tutto quell'imparare e guardare si dovrà necessariamente manifestare anche in questa nuova creatura. Mi faceva vedere tutto questo e anzi mi teneva sotto braccio e notai, quando guardò di sottecchi i miei capelli bianchi, che prese un passo ancor più gioioso e quando mi presentò al capo del suo reparto mi presentò come Ditie, come portava scritto mio nonno sulla tomba. E io sapevo che Lisa desiderava anche lei poter vivere qui quei 9 mesi e più per dedicare anche lei a Reich, un discendente puro sangue. E quando mi immaginai che con quel futuro bambino tutto si doveva svolgere proprio come quando andavamo dal toro con la vacca e dal caprone del paese con la capra, mi stavo guardando un po' attorno per quel viale di colonne e statue, e alla sua fine vidi che lì non vedevo nulla, che quel che vedevo lì era da prender paura, una piccola nuvoletta di gran terrore che mi circondò, torno torno. Ma quando riflettei, e con ciò mi salvai, che ero tanto piccolo che nel Sokol non mi avevano preso neppure nella squadra, sebbene volteggiassi sul cavallo e gli anelli proprio come quelli alti, e quando mi ricordai come mi era andato all'Hotel Parigi con quel cuchino d'oro, e infine adesso come tutti mi avevano sputato addosso solo perché mi ero innamorato di una maestra di ginnastica tedesca, e ora quando mi dette la mano il comandante in persona del nobile campo nazionalsocialista e vidi come mi guardò ai capelli paglierini, come rise piacevolmente, quasi avesse visto una bella ragazza, quasi avesse bevuto del liquore o l'acqua vita che gli piaceva di più fra tutte le bevande, allora mi raddrizzai tutto. Sebbene non avessi il colletto duro del frac, avevo forse per la prima volta l'impressione che non fosse necessario essere grande nella figura, bensì sentirsi grande. E così mi guardai intorno, tranquillamente, e smisi di essere non soltanto quel camerierino, ma anche quel piccolo di sala. E cominciai a essere una persona stimata, già per il fatto che mi chiamavo Ditie. E come mi aveva detto Lisa, un nome così me l'avrebbero invidiato anche i nobili di Prussia e di Pomerania, che nei propri nomi hanno sempre l'impronta di una radice slava, proprio come me, fonditie. Cameriere nel reparto 5, dove dovevo occuparmi di 5 tavoli a mezzogiorno e a cena e di 5 ragazze tedesche incinte. Ogni volta che suonavano dovevo portare latte, coppe di acqua fresca di montagna, focacce tirolesi o piatti di carni fredde. In generale, tutto quello che c'era qui nel menù. E io qui fiorì davvero. Come ero stato bravo nel servizio alla Quiete o all'Hotel Parigi, così ero diventato qui un po' il beniamino di queste tedesche incinte. D'altra parte si comportavano così anche le signorine nel bar dell'Hotel Parigi quando era giovedì e venivano i borsisti per le chambres séparées. Ma queste tedesche, come d'altra parte anche Lisa, tutte mi guardavano con compiacimento i capelli, il frac. Elisa poi ottenne che potesse mettermi sul petto quando servivo di domenica o nei giorni di festa quella fascia azzurra e quella decorazione in forma d'oro spruzzato con una pietra rossa nel mezzo e la scritta Viribus Unitis, perché ero venuto a sapere solo qui che anche in Abissinia hanno come moneta il tallero di Maria Teresa. E così, in questa cittadina fra i boschi, dove sera dopo sera i soldati di tutte le armi si rinforzavano con buoni cibi, si beavano per vini speciali del Reno e della Mosella, mentre le ragazze bevevano soltanto coppe di latte, perché poi notte dopo notte gli uomini venissero messi alla monta sotto il controllo scientifico, quasi fino all'ultimo momento. Così io avevo la nomea del cameriere che aveva servito l'imperatore d'Abissinia. Qui ero proprio come il maître del Parigi, Scrivanek, che aveva servito al re d'Inghilterra. E così anch'io, qui avevo un giovane cameriere al quale insegnavo il mestiere, proprio come il signor Scrivanek a me, a riconoscere di quale regione fosse questo o quel soldato, che cosa probabilmente avrebbe preso. E anche noi scommettevamo 10 marchi, li mettevamo sul tavolino di servizio, ed ero quasi sempre io il vincitore, e scoprivo che questa sensazione di vittoria, questa è determinante, che se uno si scoraggia o si lascia scoraggiare, poi questo continua per tutta la vita e non ci si riprende, in particolare nella propria patria, nel proprio ambiente, dove ti guardano come un niente, come l'eterno piccolo che dovevo essere a casa io. E però io qui dai tedeschi ero onorato e riconosciuto. Ogni pomeriggio, quando c'era il sole, portavo coppe di latte o di gelato, ma a volte, secondo l'ordinazione, anche coppe di latte o tè caldo, le piscine azzurre, dove con i capelli sciolti nuotavano quelle belle tedesche incinte, tutte nude. Io venivo considerato, e mi faceva bene, come uno dei medici. Potevo guardare come i loro corpi bianchi fluttuavano, come aprivano le braccia e le gambe, come dopo l'oscillazione e il ritmo il corpo intero si tendeva perché braccia e gambe tornassero di nuovo a quei bei movimenti di nuoto. Ma a me quei corpi non interessavano tanto, io m'ero innamorato e ne restavo sbigottito di quei capelli galleggianti che come il fumo chiaro della paglia si distendevano e libravano dietro quei corpi, capelli che si tendevano in tutta la loro lunghezza a ogni potente movimento delle braccia e delle gambe e poi quasi si fermavano un momento e quelle punte fluttuavano un pochino come le lamine di una persiana. E in più quel bel sole, e in più sullo sfondo quelle piastrelle azzurre o verdi nelle quali le onde dell'acqua formavano una patina screziata di lembi di sole e di onde, come gocce di sciroppo, e le ombre e i movimenti del corpo sulle pareti e sul fondo azzurro della piscina, e io, quando finivano di nuotare, richiudevano le gambe mettendosi e restando in piedi col seno e la pancia lungo la quale scorreva l'acqua, come ondine, io porgevo loro le coppe e loro bevevano o mangiavano lentamente per immergersi di nuovo nell'acqua, giungere le mani come per una preghiera e aprire l'acqua con le prime battute e nuotare ancora non per sé, ma per quei futuri bambini. E così vidi qui dopo alcuni mesi, ma questo ormai in piscine coperte, come nuotavano non soltanto le madri, ma anche quei bambini piccolini, quei marmocchi di 3 mesi, anche loro nuotavano con le donne, le mammine. Come nuotano le femmine dell'orso con i piccoli, oppure le foche il giorno stesso in cui sono nate, o certi anatroccoli che nuotano appena usciti dall'uovo. Solo che ormai avevo capito che queste donne che qui erano rimaste incinte e portavano nella pancia bambini e facevano il bagno mi consideravano un vero servo, nient'altro che un servo, seppure in frac, addirittura come se non ci fossi, come se fossi il loro attaccapanni, perché davanti a me non si vergognavano, era un servente. Qualcosa come i buffoni o i nonerottoli che avevano le regine, perché quando uscivano dall'acqua facevano attenzione che nessuno le vedesse attraverso il recinto. Una volta le sorprese un SS ubriaco, si misero a fregnare, si strinsero gli asciugamani sulla pancia, si coprirono il seno con i gomiti e scapparono nelle cabine, ma quando su un vassoio portavo le coppe io, restavano tranquillamente in piedi, nude, chiacchieravano. Con una mano si appoggiavano a un attaccapanni e con l'altra si asciugavano lentamente la dorata pancia pelosa. Con un gesto attento e sciolto si pulivano a lungo fra gli inguini e poi le metà del sedere e io stavo lì. Loro prendevano le coppe e sorseggiavano, come se io fossi un tavolino di servizio. E io potevo scorrere con gli occhi dove volevo, da parte mia niente poteva provocarle e disturbarle nella loro calma. Continuavano ad asciugarsi, con gli asciugamani di spugna, con cura e cautela fra le cosce. E poi levavano le braccia in alto e si asciugavano con cura tutte le anse dei seni, sempre come se io non fossi lì accanto a loro. Mentre invece, quando una volta in quegli stessi momenti si abbassò un aereo, gridando di risa, corsero nelle cabine per poi prendere posizione dopo un attimo come prima, mentre io in piedi reggevo il vassoio con le coppe che si raffreddavano. Quando ero libero, scrivevo lunghe lettere a Lisa. L'indirizzo ce l'avevo ormai vicino a Varsavia, che avevano conquistato. Poi lettere a Parigi, e poi, forse per quelle vittorie, anche qui c'era un'organizzazione più libera, costruirono ai margini della cittadina dei panopticon, tirassegni e giostre e altalene, e in generale tutto quello che si faceva anche a Praga per la fiera di San Matteo. Tante di quelle attrazioni, ma come i nostri chioschi, le insegne erano pitturate con ninfe e sileni e tanti animali e donne allegorici, sicché su questi tirassegni e insegne e giostre e sui sedili adorni delle altalene si rovesciavano battaglioni germanici con elmi e corna, e io da quei disegni imparavo la storia patria tedesca. Per tutto l'anno andavo da una persona all'altra quando ero libero e domandavo al referente culturale, e quello mi spiegava tutto con gioia e mi chiamava Mein lieber Herr Dicky. pronunciava così bene quel diti che io lo pregavo ancora e ancora di insegnarmi da quei disegni e bassorilievi il glorioso passato tedesco, affinché anch'io potessi magari un giorno procreare un bambino tedesco, così come ci eravamo messi d'accordo con Lisa, che colpita dalla vittoria sulla Francia era venuta e mi aveva detto che mi offriva la mano, che io però avrei dovuto chiedere a suo padre, proprietario del ristorante alla città di Amsterdam, a Keb. E così l'incredibile diventò realtà. E io a Keb dovetti sottopormi a una visita del giudice del tribunale medico dell'SS, e secondo la domanda che feci per iscritto e dove riportai tutta la mia famiglia risalendo fino al cimitero di Kvikov, là dove riposa mio nonno Johann Dieti, richiamando la sua origine ariana e germanica, chiedevo rispettosamente di poter prendere in moglie Lisa Elisabetta Papanek, e secondo le leggi del Reich chiedevo di essere esaminato dal punto di vista fisico, se secondo le leggi di Norimberga, come cittadino di diverse nazionalità, ero in grado non solo di compiere il coito, ma anche di fecondare sangue germanico ariano. E così, mentre a Praga i plotoni di esecuzione giustiziavano, io invece stavo nudo davanti a un medico che con una bacchetta mi sollevò il sesso. Dovetti voltarmi e con la bacchetta mi guardò dentro l'ano, poi soppesò i miei testicoli e dettò ad alta voce quel che aveva veduto e giudicato e considerato con il tatto, e poi mi pregò di masturbarmi un momento e portargli un po' del mio seme allo scopo di esaminarlo scientificamente, in quanto, come disse quel medico in un terribile tedesco del Garlander che non capivo, intuivo però quel che diceva con rabbia, che se uno stronzo di cieco vuol sposare una tedesca, allora almeno il suo sperma deve valere il doppio del seme dell'ultimo garzone nell'ultimo albergo della città di Keb, e aggiunse che lo sputo che una tedesca mi scaraventa fra gli occhi è per lei comunque una vergogna, così come per me è un onore. E io a un tratto, vedendo a distanza le notizie dei giornali di quello stesso giorno, mentre i tedeschi fucilano i ciechi, io sto qui a giocare con il mio sesso per essere degno di potermi sposare con una tedesca. A un tratto io ebbi un senso di orrore, perché là c'erano le esecuzioni, e qui io stavo davanti al dottore col sesso in mano e non riuscivo a raggiungere l'erezione e a consegnare un paio di gocce di sperma, e poi si aprì la porta e lì c'era quel dottore con le mie scartoffie fra le dita. Probabilmente avevo letto bene solo adesso di che si trattava, perché mi disse benevolmente: «Harditi, was ist denn los?» e mi batté sulla spalla e mi dette alcune fotografie e accese la luce, e così guardavo gruppetti di nudi pornografici. Conoscevo già tutto prima, quando le guardavo, quando tenevo queste fotografie fra le dita diventavo subito tutto duro, ma quanto più guardavo quelle foto porno, tanto più vedevo quelle scritte notizie di giornali che questi e altri quattro erano stati condannati e fucilati, ogni giorno altri e nuovi, innocenti, e io sto qui, in una mano al sesso, con l'altra metto sul tavolo le fotografie pornografiche, continuano a raggiungere ciò di cui ero stato richiesto, per essere poi in grado di fecondare una donna tedesca, la mia fidanzata, Lisa. Così alla fine dovette venire una giovane infermiera, lei stessa con pochi movimenti durante i quali non riuscivo e non ero obbligato a pensare a niente, perché la mano della giovane infermiera era così abile che dopo un paio di minuti portò via su un foglio due stille del mio seme, che dopo mezz'ora furono classificate come eccellenti, come le uniche in grado di fecondare in degno modo una vagina ariana. Thank you. così. L'ufficio per la protezione dell'onore del sangue tedesco non ebbe obiezioni al fatto che io sposassi un'ariana di sangue tedesco e con potenti colpi di timbri ottenne il permesso di matrimonio. Mentre i patrioti ciechi, con gli stessi colpi e gli stessi timbri, venivano condannati a morte. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.